Stiamo continuando a leggere questo tuo libro bellissimo, originale, che ti ha ispirato lo Spirito Santo, la Madonna e tutti, ma anche il tuo fondatore, José María Escrivá de Balaguer, vero? Che si intitola appunto Giuseppe e Maria, la nostra storia d'amore, è autore Don Andrea Mardegan dell'Opus Dei di Milano, Acquerelli di Anna Maria Trevisan, Edizioni Paoline. E siamo arrivati, adesso te lo dico io, siamo arrivati a pagina 137, dove inizia il 14° capitolo, che si intitola Tutti gli anni a Gerusalemme per la Pasqua. Mi pare che anche questo capitolo lo vuoi dividere in due, se non sbaglio. Sì, perché è più lungo degli altri, ci sono 4 dialoghi. Benissimo, a te la parola, sempre 25 minuti, anzi anche 24. Bene, Tontino. Allora, in effetti questo, sì, io riflettevo sul fatto che i capitoli che parlano della vita ordinaria a Nazareth sono un po' più lunghi, d'altra parte sono stati anche gli anni più lunghi, no, della vita di questa famiglia. Certo. E certo, anche adesso in questo 14° capitolo, soprattutto la prima parte, è un po' meno narrativa, cioè nel senso che non si narrano tanti episodi, ma è un po' più discorsiva, dialogata, più riflessiva, cioè è una lunga risposta di Giuseppe alla domanda di Gesù sulla quale si era terminato il capitolo precedente, no? Dopo aver pregato insieme quella parte del Deuteronomio che parla dell'amare il Signore con tutto il cuore, tutta l'anima, tutte le forze, immagino che Gesù dodicenne, chiede improvvisamente a Giuseppe, no, con quella incisività che hanno a volte le domande dei bambini o anche dei ragazzi: Abba, mi spieghi che cos'è l'amore? Ecco. E allora invece questo capitolo 14 comincia proprio così: Abba, che cos'è l'amore? E Giuseppe racconta: anch'io ricordo quella domanda di Gesù adolescente appena entrato nella bottega. Abba, che cos'è l'amore? Ero già seduto a un tavolo, con uno scalpellino stavo lavorando un pezzo di legno. Era un volto di ragazzo, mi sembrava vivo quel legno. Mi sembrava di dialogare con quel volto che nasceva tra le mie mani. E avevo l'impressione che fosse il mio cuore a muovere le mani. Può darsi che nell'immaginarmi questa cosa abbia nel retroterra del mio pensiero quel famoso libro di Collodi, dove il mastro Geppetto, poi... Certo, Pinocchio. Ecco, perché Rinaldi poi ci diede la chiave di lettura anche della, come attraverso quella storia, magari anche inconsapevolmente, c'era poi la storia appunto della salvezza. No? Bene. Allora, avevo l'impressione che fosse il mio cuore a muovere le mani. La creatura scaturiva tra le mie dita e io, che la generavo, la andavo conoscendo a poco, mantenni per un po' il silenzio e pensavo tra me e me: figlio mio, dovresti spiegarmelo tu questo mistero da cui tutto proviene, sei venuto al mondo per svelarci l'amore. E ecco, prima quando parlavo della creatura che scaturisce tra le sue dita e che generandola la conosce poco a poco, questo penso che sia un'esperienza di ogni artista, no? Che in qualche modo quando crea un'opera d'arte, ecco, c'è un'esperienza analoga, ovviamente una distanza molto grande, a quella della filiazione, no? Cioè che l'opera poi ha una sua vita, no? Così come anche accade anche con un libro, anche con questo libro che io ho tra le mani, poi ha una sua vita autonoma, anche un suo modo di parlare ai lettori un po', insomma, in modo autonomo anche rispetto a quella che era la volontà dell'autore. Mantenni per un po' il silenzio, pensavo tra me e me: figlio mio, dovresti spiegarmelo tu questo mistero da cui tutto proviene, sei venuto al mondo per svelarci l'amore. Ma capivo che Gesù volesse ascoltare come uomo da parte di suo padre qualcosa sul segreto dell'amore. Cercai di attingere la mia esperienza e di ricordare discorsi fatti con Maria. Con lei imparavo la sapienza dell'amore. Cominciai e le parole mi uscirono fluide e imprevedibili, come quella scultura che nasceva tra le mie mani. Gesù, figlio mio, noi tutti, come sai, dall'amore veniamo e quindi l'abbiamo detto, come un'opera d'arte che porta sempre in sé la traccia dell'artista. Per questo riconosciamo l'amore per somiglianza. Quando lo incontriamo, entriamo in risonanza con esso. Lo cerchiamo, lo desideriamo, ne abbiamo un bisogno infinito. L'amore lo scopri e lo capisci quando lo ricevi e quando lo doni. È il motivo per cui viviamo. L'amore è ciò che ci porta a donarci a una persona e poi a tutte, a volerle bene come al nostro stesso corpo, alla nostra stessa vita e anche di più. Siamo disposti a perdere il corpo e la vita per salvare la vita della persona che amiamo. Non c'è amore più grande di chi dà la vita per la persona che ama. Ecco, anche queste sono parole che poi riconosciamo, no? Che Gesù dirà con molta forza nell'ultima cena del Vangelo di Giovanni, no? A me piace di tutto questo brano, ecco, mi piace sottolineare il fatto che noi crediamo, sappiamo, anche insegniamo anche, che appunto veniamo dall'amore di Dio, cioè l'amore di Dio è l'origine di tutto, ci ha creati per amore, no? E allora in questo modo proprio portiamo dentro di noi questa traccia originaria, no? E quindi in qualche modo abbiamo la capacità di riconoscere per somiglianza l'amore quando lo incontriamo, e abbiamo questo grandissimo desiderio di viverlo, anche perché è anche il nostro fine, no? L'amore infinito di Dio da accogliere, a conoscere, poi e da vivere poi per tutta l'eternità. Gesù mi guardava con quegli occhi grandi e profondi, quello sguardo mi aiutò a continuare. Apro le virgolette, no? Giuseppe continua a parlare. Quando guardi negli occhi tua madre, guardi la bellezza dell'amore. Io mi innamorai di quella bellezza e le regalai la mia vita. Il nostro amore e la vita donata l'uno all'altra costruirono la tenda della tua nascita, la casa della tua crescita, la bellezza dei giorni normali della tua famiglia terrena. Il nostro amore per te è stato la protezione dei tuoi anni, il nutrimento del tuo cuore. Donando la mia vita a tua madre e a te, l'ho ritrovata moltiplicata per 100. Mi viene in mente, leggendo queste parole di Giuseppe, non per questa trasmissione, che senz'altro questo è un lungo discorso di Giuseppe che fa con Gesù, e mi viene in mente che a volte, appunto nell'esperienza educativa, no? Un papà magari nella vita fa pochi lunghi discorsi con il figlio, ma il figlio se li ricorda, no? Se li ricorda per tutta la vita, e altre volte l'educazione passa attraverso piccole frasi semplici, quotidiane, no? Ma i grandi discorsi magari sono pochi, però sono anche molto importanti. Gesù mi guardava e guardava quella testa di ragazzo che stavo scolpendo. Sempre apro le virgolette del discorso di Giuseppe. L'amore mi porta a contemplare il tuo volto e quello di tua madre e a ringraziare Dio che vi ha creato. Non cambierei nulla di quello che l'artista divino ha fatto per scolpire questo volto, se fece questo volto che ha tra le mani. Ho bisogno del legno, non mi basta il pensiero. Per imparare ad amare ho avuto bisogno di te e di Maria, dei vostri volti da accarezzare e dei vostri cuori che muovono il mio cuore. Tua madre Maria mi ha insegnato a guardarla e ad amarla come lei desiderava essere guardata e amata, e si è lasciata amare, cosa che fa accadere sempre il miracolo dell'amore. Ecco, insomma, tra tante cose che ho messo in questo denso capitolo, che alcuni dicono che forse è un po' un capitolo più saggistico, no, rispetto al resto che è più romanzato, più narrativo, ecco, mi piace sottolineare questo aspetto del lasciarsi amare, no? Qualche volta è importante questo lasciare, no? Che le persone care che ci stanno vicine ci possano amare, no? Questo è importante per gli sposi, per i figli, per i genitori, ma per tutti. Mi fermavo a guardare Gesù e Gesù mi diceva con lo sguardo: continua papà, ricordati che l'amore vero sulla terra porta con sé sempre il dolore e c'è il pericolo di avere paura del dolore. È normale per gli uomini avere paura del dolore. La paura del dolore può portare ad allontanarsi dall'amore, ad avere paura di amare per non soffrire. Quando capita, l'unica soluzione è buttarsi tra le braccia dell'amore. È un paradosso. Solo l'amore vince il dolore che porta sempre con sé. Non devi separare mai il dolore dall'amore né l'amore dal dolore. Abbi speranza nell'amore che vince sempre. Per quanto il dolore provi a sfigurare il cuore, non ci riesce mai del tutto. L'amore è potente. È come il fiore che nasce tra le fessure delle pietre e le trapassa. Chi ha il coraggio di soffrire la paura ha anche il coraggio della lotta contro la paura e alla fine scopre l'amore. La mia esperienza è che nell'amore di Maria e nell'amore che per te e nell'amore per te trovo sempre il vero riposo. Questo concetto del riposare nell'amore mi è stato sempre suggerito da quelle parole di Gesù che dice nel Vangelo: venite a me voi tutti che siete affatti e stanchi e troverete riposo, no? Per le vostre anime. Io penso che appunto nell'amore vero, nell'amore autentico, nell'amore sincero, noi troviamo riposo. In fondo è quando appunto la vita di famiglia funziona bene, quando la vita di coppia funziona bene, quando il rapporto tra genitori e figli è bello e in effetti noi troviamo il nostro vero riposo, no? E dunque, attenzione un attimo, qui ho perso un po' nel ragionare nel libro ho perso un po' la traccia, adesso ritrovo, ecco, non devi sparare. Ecco, poi mi pensavo anche questo mentre rileggevo prima della trasmissione questo capitolo. Certo, dico, quando scrivo non devi separare mai il dolore dall'amore né l'amore dal dolore, dicevo fra me, è facile scriverlo, no? Poi dopo non è facile viverlo, no? Perché appunto perché il dolore fa male. Comunque io penso che ciascuno di noi in situazioni molto diverse può applicare a sé questa, o anche ad altre persone che aiuta, per esempio noi sacerdoti, tanto spesso che ascoltiamo persone che confidano il loro dolore, le loro difficoltà della vita, e dobbiamo tenere presente questa possibile deriva del cuore umano, no? Che soprattutto le persone che hanno sofferto possono avere questa tentazione di chiudere il cuore, no? Proprio per non soffrire più. Però alla fine io penso che questo non convenga, quindi devi sempre lasciare aperto il cuore e chiedere al Signore, chiedere a Giuseppe e a Maria la grazia di riuscire ad essere forti nel dolore, ma per poter continuare ad amare. L'amore è ciò che mi rinnova le forze, mi ridona lo slancio, mi porta alla vita. Gesù mi guardava con gli occhi sempre più accesi. Gesù, mi domandi che cos'è l'amore? Amore sei tu, nato dentro il corpo della tua mamma. Amore è lei, il vostro volto. Amore è lo Spirito Santo che ti ha creato. Tutti gli uomini nascono dall'amore che ha creato il cielo e la terra, anche Adamo ed Eva. E dopo di loro tutti ricevono la vita da quell'amore inventato dall'amore. Qui faccio un gioco di parole, metto prima amore minuscolo, poi amore maiuscolo, cioè l'amore umano e l'amore divino, dall'amore che l'uomo e la donna si donano. Ad Adamo e a Eva era mancata una madre. Adesso Dio fa nuove tutte le cose. Questo è un aspetto, una delle tante scoperte che ho fatto nello scrivere questo libro, cioè riflettendo, meditando, mi è venuta in mente questa cosa che è molto semplice, no? Nella storia della salvezza, nella storia biblica, che però non avevo mai messo a tema, non avevo mai capito io, no? Cioè che effettivamente Adamo ed Eva non hanno una madre, no? Li crea direttamente Dio nella storia biblica, E invece adesso Dio fa nuove tutte le cose, e quindi ecco, dice: tu nascesti direttamente dall'amore del Creatore come Adamo, ma sei nato da donna, no? Quindi è vero che Gesù è il nuovo Adamo, è veramente quell'uomo come Dio lo ha pensato, senza peccato, con la pienezza di umanità. E però in più, rispetto ad Adamo, ha anche una madre, mi consola molto questo pensiero. E Maria è stata creata dall'Altissimo per essere tua madre, scelta e preparata da Dio, libera nel dire sì, per amore a essere tua madre. Sei figlio della libertà dell'amore, sei figlio dell'Altissimo amore, che si unì all'amore di tua madre e chiese a me di non far mancare nella vostra vita l'amore dello sposo e del padre. Se tu lo chiedessi a tua madre, lei ti potrebbe dire quello che disse a me un giorno. In virgolette, parole di Maria: Dio mi chiedeva amore e mi dava amore, io gli chiedevo amore e gli davo amore. È il segreto per sgomberare il cuore: dare e domandare, come fanno i bambini domandano amando, e non c'è amore vero senza domanda d'amore, non ci può essere un amore senza domanda. L'amore è in se stesso domanda, e io davanti all'angelo mi feci domanda d'accoglienza, di desiderio, mi feci domanda d'abbandono, di compimento in lui. E gli sposi possono pensare a quel momento in cui si sono dichiarati, il momento in cui in fondo hanno chiesto, no? Anticamente, no, si usava addirittura mettersi come lo sposo in ginocchio davanti alla sposa per chiederle la mano, no? Per chiedere la possibilità di sposarla. È proprio una domanda, no? Una richiesta d'amore. Amore sei tu, Gesù, che mi domandi. L'amore che sento per te è un mistero che riempie la mia vita. Di te e di tua madre amo tutto. Tutto quello che siete e tutta la vostra vita. E vi amo con questo lavoro, con questi truccioli che mi volano sui capelli, con le schegge di legno che mi feriscono le mani, con questo legno che diventa carne. Rimaneva pensoso e luminoso Gesù, ascoltava qualcosa che già sapeva, lo maturava nel suo cuore di ragazzo. E qui c'è un piccolo stacco, no, nel racconto di Giuseppe, una paragrafo, cioè una riga bianca, e parte un altro racconto, appunto, dell'andare a Gerusalemme. Andavamo tutti gli anni a Gerusalemme per la Pasqua. Ecco, io direi, Don Andrea, concludiamo questa pagina. E poi dopo, la prossima volta, riprendiamo da ormai sei grande e posso raccontare. D'accordo? Perfetto, perfetto. Concludi questa pagina. Giuseppe dice, andavamo tutti gli anni a Gerusalemme per la Pasqua. Per chi poteva andare e tornare in giornata, la legge prescriveva che ci si recasse 3 volte l'anno alla città santa, anche per la Pentecoste e per la festa delle capanne. Ecco, questa è un'altra cosa che ho scoperto studiando. Noi non eravamo tenuti, perché abitavano più lontano, no? Quindi per sé non eravamo tenuti ad andare a Gerusalemme, ma almeno una volta all'anno ci andavamo. Avevamo passione per quella città e per il Tempio. Maria aveva molti ricordi e rivedeva molte amiche. Insieme rammentavamo la prima volta con Gesù al Tempio, quando fu la presentazione, no? E vedevamo anno dopo anno come Gesù cresceva nel capire e nel gioire per Gerusalemme e per il Tempio. I viaggi erano occasioni di lunghe chiacchierate per noi, indimenticabili, no? Anche in tutte le famiglie si fa questa esperienza, che a volte in vacanza, quando si fa una gita, quando si fa un viaggio, e c'è più tempo per poter parlare. No? Quell'anno Gesù sapeva che i suoi 12 anni sarebbe stato tenuto ad andare se avesse abitato un solo giorno di viaggio, ma noi non andavamo per compiere la legge, bensì anche se continuava la legge ovviamente, bensì perché amavamo la casa del Signore e il pellegrinaggio a piedi ci aiutava ad assaporare il senso della nostra vita. E questo, il fatto del pellegrinaggio, come tutti anche sperimentiamo, poi pensiamo a quelli che fanno il cammino di Santiago, hanno questa esperienza che il pellegrinaggio a piedi aiuta a fare sintesi della propria esperienza e a fare, come dire, una sorta di parabola della vita, no? E verso la meta eterna, no? Dell'incontro con Dio, noi andiamo verso Gerusalemme o verso Roma o verso un santuario mariano. Molto bene, non abbiamo, e quindi non abbiamo premura di finire questo libro, quindi per ora sospendiamo questo capitolo. Sì, perché poi questa parte è molto densa, effettivamente. Sì, sì, davvero, davvero. Cos'è l'amore? E non è mica una cosa facile. E allora, dalla prossima volta parliamo in modo specifico del pellegrinaggio a Gerusalemme, vero? Benissimo, perfetto. Allora, una bella benedizione su tutti gli ascoltatori, sì, che stanno seguendo questo libro così interessante, perché questo amore fra Giuseppe e Maria sia rivissuto da tutti noi, nel senso coniugale, ma anche nel senso di amore fraterno. Amore fraterno, senz'altro. Allora, la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su tutti gli ascoltatori di Radio Maria, su tutte le loro famiglie, e in particolare chi ha più bisogno, i malati, gli anziani, i bambini, e rimanga sempre. Amen. E anche su tutti gli aderenti dell'Opus Dei. Veramente. La benedizione anche del fondatore, eh.